Va su da quelle scalette di pietra. Vi è una scala di lei che la sbuca su sta passerella qua e te vieni dentro. Ma guarda che le scale di là. lei.